ringrazio di essere intervenuti così numerosi, è una settimana piena questa perché ci sono tantissime iniziative, e non solo in provincia ma anche proprio nella città di Bolzano, e la biblioteca provinciale questa sera è contenta di ospitare Emilio Franzina e i musicisti che vedete dietro le spalle, perché offrono una conferenza, spettacolo di storia cantata, cioè una cosa che effettivamente credo non sia mai stata proposta a Bolzano e nella nostra provincia, e è un modo particolare per dare inizio anche ai festeggiamenti per l'Unità d'Italia. Prima di presentare i nostri ospiti vorrei dare intanto la parola al vicepresidente della Giunta Provinciale, che è anche il presidente di questa biblioteca, dottor Cristian Tomasi, che ringrazio di essere venuto stasera. Innanzitutto buonasera e benvenuti, siamo in tanti, che dimostra ancora una volta Valeria che la biblioteca è piccola e dobbiamo ingrandirci il prima possibile, e lo faremo ovviamente col polo bibliotecario, ma speriamo anche prima. Questa sera lo spettacolo che presentiamo è uno dei primi appunto in vista delle celebrazioni. In Alto Adige si è parlato molto, si è anche polemizzato molto sul 17 marzo, quindi sul festeggiamento dell'Unità d'Italia. Noi vogliamo festeggiare ovviamente l'Unità, lo facciamo perché siamo convinti che al fondo ci siano dei valori comuni, che è quello di solidarietà nel nostro paese fra nord e sud, di unione, di valori costituzionali, e quindi vogliamo ricordare questi 150 anni e lo vogliamo ricordare come e soprattutto trattare come una festa, una grande festa per tutti e soprattutto per chi la sente, per tutti i cittadini che la sentono. E la biblioteca Claudio Augusta è stata incaricata da me di organizzare anche un programma culturale, perché al di là delle celebrazioni ci saranno, io andrò a Roma il 17 dal Presidente della Repubblica, ci sarà la fanfara dei Carabinieri, ci sarà un concerto domani sera al Cristallo dell'Istituto Musicale, ma volevamo anche proporre un programma un po' più culturale, diciamo oltre ai festeggiamenti veri e propri, in cui ragionare, e questa sera sarà un punto, un appuntamento un po' storico e anche un po', diciamo, un po' in forma di spettacolo, quindi una cosa veramente innovativa, ma complessivamente la biblioteca ha il compito anche, come dire, di tematizzare la storia e il percorso del nostro risorgimento, e quindi oggi parte un percorso che durerà tutto l'anno e che vedrà una serie di appuntamenti, di riflessione, di confronto, di presentazione di libri, in cui noi vogliamo appunto ragionare sui 150 anni dell'Unità d'Italia, su quello che ha significato, sui processi storici. Quindi siamo contenti di dare questo contributo, che appunto è un contributo ai festeggiamenti, ma è soprattutto un contributo appunto culturale. Quindi buona serata a tutti e buon divertimento. Grazie. Grazie. Presento i nostri ospiti, allora il professor Emilio Franzina, docente della storia contemporanea. Docente di storia contemporanea all'Università di Verona, è stato nostro ospite ancora anni fa, nel 2003-2004, per il ciclo di conferenze Memoria e Identità, e sono contenta che abbia accettato l'invito di tornare qui a Bolzano con noi. È accompagnato questa sera da Paolo Bressan, ecco, diplomato. Sono musicista accompagnato di Andrea nel 97, ecco, in tournée, e quindi sono musicisti di alto calibro. E ricordo anche Mirko Maestro, del premio settimo concorso internazionale Città di Stradella. Ecco, la biblioteca, come avete sentito dal vicepresidente Tomasini, inizia con oggi una serie di attività. Il calendario delle iniziative che riguardano altre associazioni ed enti lo renderemo pubblico sia in forma cartacea con dei dépliant che potete ritirare qui in biblioteca, oppure semplicemente dal nostro sito sarà consultabile, ecco. E poi lo pubblicheremo di volta in volta anche presso i media locali. Inoltre la biblioteca organizzerà in maggio un incontro su una figura particolare, che è l'unico garibaldino che abbiamo avuto qui sul nostro territorio, Camillo Zancani. Quindi ci saranno degli storici che interverranno e ci racconteranno, illustreranno la storia e il profilo di questa figura. Infine mettiamo a disposizione di tutti gli utenti e vi invitiamo anzi a consultarla la bibliografia che abbiamo preparato ed aggiornato in questi ultimi mesi, sempre legata al tema del Risorgimento e dei 150 anni della nostra Repubblica. Vi ringrazio, cedo la parola subito a Emilio Franzina e grazie ancora. Grazie. Allora, prima di cominciare ufficialmente questa cosa, in piccoletta schiera, ma perché è un gusto lo spazio e fuori ci sono le masse che premono e possono entrare di privilegiati, direi due parole per spiegare che tipo di cosa è quella che farò. È vero, dicevano, ma la fai, e lo capiamo, ma è meglio che dia qualche informazione. È un'attività che svolgo da parecchi anni con loro, con altri musicisti anche, sui tempi diversi. Sono sostanzialmente delle lezioni di storia con una piccola differenza che oltre ad esserci, diciamo, il parlato c'è anche il cantato, ma i luoghi in cui questo esperimento è stato fatto, l'ultima uscita l'abbiamo fatta non a caso perché giocavo in casa a Verona la settimana scorsa al Teatro Camploi, il teatro era pieno, anche se fuori mi contestavano i leghisti locali, i venetisti, quelli che hanno bruciato Garibaldi, tanto per spiegarsi. Ma io mi ritengo onorato di ciò, e insomma coinvolge pubblici che io spero sempre siano come dire, differenziati. Mi rendo conto che è una pretesa eccessiva. Al Camploi c'erano anche dei giovani, perché normalmente io guardo un po' in giro, non abbiatevene, ma siete più o meno coetanei miei o giù di lì, e allora voglio dire, c'è questo dato, chi si interessa a queste cose, effettivamente c'è anche una fascia di pubblico. Ma arrivando a Bolzano, questo esperimento, e in particolare in questo ambiente così raccolto, diciamo, ha dovuto anche fare i conti, avvicinandomi all'appuntamento, con queste polemiche di cui l'assessore prima faceva menzione, che io ho visto da distante. Io ho letto solo sui giornali la storia di Biancofiore e di Sgarbi, e subito ho pensato, ma guarda te, ma questi vogliono subito dare un, come dire, una piega particolare a tutti questi eventi, perché già una che si chiama Biancofiore, cioè Biancofiore, i più maturi lo ricordo, Biancofiore, simbolo d'amore, era l'inno cattolico, l'inno della DC, diciamo la verità. Allora lì mi è venuto in un lampo. Beata la Democrazia Cristiana, quei tipi che corrono. No, pensi, no, ma questo in molti lo fanno. Ma siamo sempre fuori dallo spettacolo, che non crediate, che dopo racconto agli altri, anche perché Biancofiore che evoca la canzone. Riporta in primo piano l'altra questione del nome in nome, nomina omina, perché qua siamo in un paese dove Biancofiore, vabbè, d'accordo. Sgarbi lo dice la parola stessa, è un uomo sgarbato come minimo, oltre se non ho mai capito quello che ha detto, anche un po' fuori di testa, perché per essere sempre al centro dell'attenzione dice delle eresie di dimensioni cosmiche. Però siamo nel paese in cui il capo della polizia si chiama Manganelli, scusate se poco, e dove il segretario della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, si chiama Monsignor Crociata, dico, vabbè, andiamo un po' per ordine. Ma non è niente, no, ma vi ricordate, poverino, quell'alpinista due anni fa che rimase congelato sull'Himalaya o sulle Ande, non ricordo, si chiamava Matteo Refrigerato, o l'ultimo ancora, adesso speriamo che non ce ne siano nel, peraltro terribile tragedia che ha colpito il Giappone, che non ci siano italiani anche lì col nome giusto, perché l'ultimo era stato ad Haiti, il terremoto di Haiti, anche quello non molto tempo addietro, non lo hanno più ritrovato, si chiamava Antonio Sperduto. Io non so cosa dire di fronte a questa sequenza di cose, dico, mi arrendo, è la solita realtà che supera la fantasia. Ma qui nel percorso che ci accingiamo a fare c'è da compiere una piccola ulteriore premessa che riguarda lo specifico di questi canti, che sono canti, inni, ma anche canzonette e arie d'opera, perché lo sforzo che vi richiederò questa sera è semplice: cercate di fare quello che gli storici fanno per mestiere, cioè evitare l'anacronismo e di calarsi nel tempo di cui si sta parlando, perché noi, se vogliamo capire anche il malfamato inno di Mameli, che poi si chiamava Canto agli Italiani, e diciamo, se non è Benigni a cantarcelo morente, che è retorico, che è insomma bolso, facciamo un anacronismo, perché non ci rendiamo conto che magari poi anche a scuola quelli che insegnano, o quelli di noi che sono andati a scuola quando ancora la scuola esisteva, le poesie dell'Ottocento che abbiamo imparate, e sicuramente di eccessi poeti, ma dicevo prima un giornalista, ma chi di noi dice più la donzelletta di un e lo parli. Allora cerchiamo di entrare in quell'ordine di idee. Le cose che sentirete, e molte, alcuni di voi già penso le conoscono, sono di quel tempo, e io voglio capire come in quel tempo si arrivò ad avere quello che fu un movimento nazionalista, ma non solo. È la storia del risorgimento italiano, quindi del nazionalismo italiano dell'Ottocento, che è il nazionalismo dal volto buono. L'altro giorno ho fatto un incontro, un dibattito con Boris Pahor, lo scrittore sloveno di Trieste, che quando io ho usato il termine nazionalismo dal volto buono mi ha corretto e ha detto: no, guarda, è meglio dire coscienza nazionale, perché la coscienza nazionale è una cosa legittima e giusta, e se me lo dice uno sloveno di Trieste, che è poi scampato anche ai campi sterminio, io gli do fiducia. Detto questo, c'è da ricordare che l'Ottocento italiano è parte dell'Ottocento europeo, e dentro l'Ottocento europeo ci sono i movimenti irredentisti, che sono contemporaneamente liberali, che vogliono la Costituzione, vogliono le leggi uguali per tutti e nessuno che sia di sopra della legge, tanto per intendersi, per dire quanto avanti erano rispetto alle condizioni in cui ci troviamo oggi. E allora io voglio anche dire che in questa fattispecie potrei ricordare una cosa che qui a Bolzano magari stupirà. La trago dall'autobiografia di Manfredo Camperio, è un personaggio minore del colonialismo italiano fino all'Ottocento, che però nei giorni delle Cinque Giornate di Milano era un giovane patriota, diciottenne, che venne arrestato prima che queste giornate avessero dando il segnale della rivoluzione in Italia, e fu imprigionato e venne mandato a Linz. Venne mandato a Linz e nel viaggio fece sosta qui a Bolzano. E a Bolzano lui racconta, vi dico proprio in breve, che sennò facciamo notte: si viaggiava giorno e notte cambiando cavalli a tutte le poste, mangiando nei villaggi. A Trento fummo fatti segno a una tale dimostrazione con Evviva l'Italia che credemmo a un moto rivoluzionario, ma anche a Bolzano come a Innsbruck vi furono per noi molte dimostrazioni di simpatia e di stima, e si sentiva che tirava vento rivoluzionario anche al di là delle Alpi. Cioè, per dire che ad esempio il 48 è una cosa che riguarda sì gli italiani, ma riguarda anche, come sanno quelli che hanno studiato un po' di storia, i tedeschi, e Vienna che insorge, diciamo, tra le grandi città europee per prima, lasciamo da parte Palermo che insorge nel gennaio. E allora lì bisogna capire da cosa viene fuori questo. Io credo che le canzoni abbiano avuto un ruolo, e soprattutto che l'abbia avuto anche quella strana ideologia che un giovane dotato di una forza d'animo eccezionale cominciò a elaborare, e fu l'artefice primo, e che era contemporaneamente, nonostante l'aspetto un po' triste, tutti lo ricordiamo, chi si ricorda Mazzini allegro? Una foto o un disegno che l'abbia mai mostrato allegro Mazzini non c'è. Eppure Mazzini era uno che amava suonare la chitarra, e chi va a Genova al Museo del Risorgimento di Genova la ritrova ancora appesa, e cantava cosa? Le canzoni che gli ricordavano quella che era la base sua e di tutti quelli che gli vennero dietro, gli tennero, come dire, bordone, lo aiutarono a un certo momento. Dietro a queste cose, di cui noi vi racconteremo una parte almeno di motivazioni canore, c'è la rivoluzione francese, c'è questa cosa che può anche essere stata complicata enormemente da Napoleone, e gli italiani a loro volta lo sanno, non solo i tirolesi e Andrea Soffer, cioè la rivolta di Andrea Soffer è anche la rivolta di tutti i contadini italiani in tre quarti del regno italico, quindi. Però c'è comunque per la prima volta una rottura di quegli schemi che oggi invece sembrano essere tornati in auge, perché lo Stato patrimoniale, il monarca assoluto e qualcuno che si pone al di sopra delle leggi, adesso noi ce l'abbiamo di nuovo. Ma allora, nel 1789, avevano pensato di come dire, chiudere questo capitolo, e dietro al nazionalismo mazziniano e italiano c'è anche questa cosa. Insomma, alle origini del nostro racconto c'è molta rivoluzione francese, c'è anche quella canzone che Mazzini cantava e suonava, quando era triste si suonava questa alla chitarra, si accompagnava, e c'è soprattutto l'idea di una patria repubblicana e costituzionale, senza privilegi di casta, una patria dove tutti i cittadini appunto siano, nei limiti del possibile, dell'umano possibile, considerati, e che si debbano fra loro considerare uguali. Or che innalzato è l'albero. Or che innalzato è l'albero, sa questo è l'inno all'albero, perché sapete, alla Rivoluzione Francese avevano alzato gli alberi della libertà, poi ci furono molte complicazioni, ma arrivando nei dintorni del Risorgimento italiano e dei suoi primi passi, bisogna tener conto che le canzoni svolsero, al di là di quella funzione consolatoria che per Mazzini aveva l'inno dell'albero, un ruolo importante. Ora io, avendo fatto la prova, adesso devo dire, spero di reggere, anzi vado a prenderli come minimo l'acqua, perché mi sono dimenticato di portare il tamarindo o il vino, il vino rosso era meglio, perché qui c'è il problema che siamo in piccole tastiere, in luogo raccolto, ma come sentite gli strumenti che io di solito domino col microfono, perché mi viene amplificata la voce, ma il loro suono è più forte anche di quello della mia chitarra, che in braccio adesso per farvi ascoltare, mi dispiace che non mi vedete in fondo, ma insomma avete visto come sono fatto, per farvi ascoltare un esempio di canto o canzone meglio. Qua siamo addirittura alle origini della canzonetta, perché nell'Ottocento quello che va più di moda è la musica lirica, però cominciano già ad esserci, in una forma diversa dal canto popolare che c'era da secoli, le prime canzonette. E pensate, nel 1834 Mazzini fonda la Giovane Italia, nel 31 e nel 34 fonda la Giovane Europa, viene divulgato per la prima volta, non si sa chi gli abbia messo la musica, ma le parole sono di uno scrittore, si chiamava Tommaso Grossi, questa canzone che più tardi sarà usata molte volte come una specie di canto degli esuli e di coloro che hanno perso la libertà e la patria. È una delle più famose rondinelle dell'Ottocento italiano, si intitola Rondinella Pellegrina, e insomma, ascoltate, e come dicevo prima, per le parole anche per la musica cercate di capire, se vi piacerà, che con il gusto di allora poteva effettivamente avere quel successo che di fatto ottenne. Rondinella pellegrina che ti posi sul Verone, ricantando ogni mattina quella flebile canzone, che vuoi dirmi in tua favella, pellegrina rondinella, che vuoi dirmi in tua favella, pellegrina rondinella, solitaria nell'oblio dal tuo sposo abbandonata, piangi forse al pianger mio, le novella sconsolata, piangi, piangi in tua favella, pellegrina rondinella, piangi, piangi in tua favella, pellegrina rondinella. Il settembre innanzi viene e a lasciarmi ti prepari, tu vedrai lontane arene, nuovi monti e nuovi mari, salutando in tua favella, pellegrina rondinella, salutando in tua favella, pellegrina rondinella. Poi c'è la botta di tristezza. Una croce a primavera troverai su questo suolo, rondinella in sulla sera, sopra lei raccogli il volo, dimmi pace in tua favella, pellegrina rondinella, dimmi pace in tua favella, pellegrina rondinella. Se avete capito, l'usta, potete anche applaudire. Allora, diciamo così, questo è l'intercalare del mio collega il professor Pastore, continua a dire diciamo. Ecco, c'è però, dicevo, il problema anche delle canzonette in un'epoca, badate bene, in cui non esiste la riproduzione meccanica del suono. Tutto questo racconto è per un periodo in cui non ci sono i grammofoni, i fonografi, i giradischi, meno che meno la radio, meno che mai il cinema, ma il cinema dopo sarà uno dei primi, anche quando c'è il muto, a usare proprio la musica. La televisione poi cambierà molte cose, ma più avanti. E allora bisogna tener conto del fatto che la gente cantava e copiava, facevano i contraffacta, le parodie. Le parodie rendono forte all'inizio anche il debutto di quella che noi potremmo legittimamente considerare già canzone commerciale. È vero che prima che nasca la canzone che definiremmo di musica leggera occorre aspettare ben oltre la fine dell'Ottocento, già quella che chiamiamo in Italia l'età giolittiana. Però già le romanze da salotto, quelle di Amedeo Tosti, già le canzoni di fine Ottocento hanno l'impronta della nostra canzone commerciale. E soprattutto, prima ancora che arrivino i mezzi meccanici, c'è il festival. Il festival che è una cosa che sembra caratteristica solo di Sanremo, ma invece ha dei sani precedenti. Allora sentite un po' che cosa succede dalla viva voce di Luigi Settembrini. Letterato, scrittore, patriota, liberale, napoletano, incarcerato dai Borboni, che è rinchiuso dentro alla prigione di cui parla nelle sue ricordanze a Napoli nel 1839 e dice, nelle ricordanze, una mattina che io sentivo tutte quelle angosce strazianti dei carcerati, udii di lontano anche una voce di donna che cantava soavemente, mi parve come un balsamo sopra una piaga. Entrò il liguoro, il capo dei carcerieri, e io gli domandai, ma chi è che canta così bene? È mia figlia, disse. E che canzone canta? Ma la canzone nuova, ti voglio bene assai, e tu non pensi a me, ti piace? Ebbene, le dirò che la canti spesso, ma voi non pensate né a me né a lei. Ogni anno, commenta Settembrini, alla festa di Piedigrotta, l'8 di settembre, il popolo napoletano va nella grotta di Pozzuoli e lì l'uno sfida l'altro a cantare improvviso e la canzone giudicata più bella si ripete da tutti, è la canzone dell'anno e ce ne sono delle belle e delle bellissime, questa fu tra le bellissime e io non posso ancora dimenticarla. Tre cose belle furono in quell'anno 1839, le ferrovie, l'illuminazione a gas e te voglio bene assai. Uno potrebbe aggiungere da storico anche uno dei primi congressi degli scienziati italiani. Uno potrebbe anche dire, ma questa cosa fece per ottenere quel successo di cui poi anche vi dirò meglio? Ma circolavano, non avevano giradischi, ma circolavano le copielle. C'erano i fogli volanti come questi. I fogli volanti ne tirarono in prima battuta 180.000 copie e già l'anno successivo ne avevano vendute più di un milione. Aveva più di un milione di copie col testo della canzone. E la canzone aveva avuto grande successo per la sua qualità estetica. Era stata scritta da un certo Raffaele Sacco e la musica pare sia stata di un maestro di cui si conosce solo il cognome, Campanella, ma tutti dicevano ma forse è stato Donizetti o comunque è stata copiata un'aria di Donizetti perché spesso si prendeva dalle opere lo spunto. L'aria era Vi ravviso luoghi ameni della Sonnambula. Tuttavia c'è da dire che a quell'epoca, altra canzone famosa che molti di voi conosceranno, Fenesta calucive monoluce, io faccio appello, qui a un dato anagrafico, cantatevela in testa, Fenesta calucive monoluce, e poi provate a cantarvi anche Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, Violetta Berti. È la stessa, solo che lì la ripresa, che sia casuale o cosa, non si sa, avviene dopo 120 anni. Ma noi adesso, con questo Io te voglio ben assai, facciamo un primo passo, ne ascoltiamo un brano iniziale, poi anche il commento perché era diventata popolare. Perché quando me vide tan griffa come un gatto, venne che t'ha fatto, che non me può vedere, io t'ha amato tanto, di tane tu lo sai, io te voglio ben assai. Tutte dormono, i canu può. canzone era, la canzone era diventata così popolare, ma così popolare che era ossessiva. Nel 1840 e nel 1841, tanto per dare un'idea, vennero composte per frenarla, ma sulla stessa aria, contraffatto, un parodia, delle altre canzoni. Vi faccio ascoltare solo un paio di strofe, penso che il napoletano mio si capisca, al Bolzano penso che... Da cinque mesi canterò, mattina, giorno e sera, e fanno sta tiritera, tutti gli marame, marameo, che senti a noto vuoto, che senti a noto vai, io te voglio bene assai, e tu non pensi a me, io te voglio bene assai, e tu non pensi a me. Ma voglio vedere il pensiero dopo. Beh, l'altra... L'altra era in italiano, e c'è una ragione perché mi canto anche quelli in italiano, perché quelli in italiano mi serve per un discorso. Dice: addio mia bella Napoli, fuggo da te lontano, perché pensier si strano, tu mi dirai perché, perché mi reca nausea quella canzone ormai, io te voglio ben assai, e tu non pensa a me, io te voglio ben assai, e tu non pensa a me. Ecco, per dire che questa è in italiano, peraltro è in napoletano, ma non crediate che milioni di copielle le avessero vendute solo a Napoli, Campi Flegrei, Pozzuoli e quant'altro, no, erano circolate in Italia, e anche questo deve dar da pensare, perché nella divisione, che è obiettiva fra nord e sud come minimo, ma anche fra varie regioni d'Italia, e quindi anche altri problemi che possono esserci anche qui, beh, tutti sappiamo che abbiamo qualche terrone vicino e qualche nordico più nordico di noi, dappertutto, cioè ci ferma con le renne al polo nord, perché dico i norvegesi, guarda, lì si fermano, ma gli altri hanno sempre qualcuno più a sud e dei problemi. Ma quando si usa una lingua e la identità nazionale di un popolo è la sua lingua, bisogna far conto proprio di questa circostanza, che già in questi fenomeni voi vedete in funzione e in marcia quasi quello che diceva giustamente Boris Parco, può essere considerato una coscienza, considerata una coscienza nazionale. Naturalmente questa coscienza nazionale si avvale anche di veri e propri inniecanti politici. A un certo momento quel Manfredo Camperio, di cui vi dicevo all'inizio, racconta sempre nella sua autobiografia di quando, cospiratore giovane a Milano, siamo tra la fine del 47 e gli inizi del 48, andava di notte a scrivere sui muri "Viva Pio IX", che era una roba sovversiva, e quando assieme a altri suoi coetanei, su indicazione dei comitati d'azione mazziniani, frequentava la gioventù dei quartieri popolari di Milano, di Porta Ticinese, di Porta Romana, andando a fare cosa? Vi leggo. I comitati ci davano anche i danari che noi portavamo agli operai dei quartieri Porta Ticinese, di Porta Vittorio, Porta Romana, e le riunioni avevano luogo in una cantina del Cadenino. E là si imparavano le canzoni patriottiche, c'era un maestro di musica popolare pagato da noi e si cominciavano a distribuire segretamente le armi. Le canzoni erano "Viva Pio IX", "Addio mia bella addio", "Al par dei romani antichi guerrieri" e l'inno dei giovani ardenti. Allora, sentiamone uno di quelli che forse non conoscete, perché fra l'altro subì una variazione nel corso del tempo, ed è l'inno dei giovani ardenti, è del 1847. E dice più o meno, o giovani ardenti d'Italia, amore, serbate il valore, bei dì del pugnal. Viva l'Italia, viva Pio IX, viva l'Unione, la libertà, e viva l'Unione, la libertà, e viva l'Unione, la libertà. Poi Pio IX nel 1948 fece un po' una giravolta il 29 aprile di quell'anno con una celebre allocuzione, se no tutti a casa aveva paura che si adontasse l'imperatore d'Austria, sovrano cattolico, apostolico e quant'altro, e quindi disse no, ma l'esercito pontificio era già arrivato nel Veneto e fra l'altro aveva preso stanza proprio nella mia città, a Vicenza, 10.000 soldati pontifici, 10.000 soldati di linea, per lo più svizzeri, ma non solo, le famose guardie svizzere. E allora lì dovettero fare un piccolo aggiornamento e l'inno diventò sempre stessa musica col ritornello modificato. Facciamo un'altra strofa: stringiamoci assieme, ci unisca un sol patto, dei dì del riscatto l'aurora spuntò, viva l'Italia indipendente, viva l'unione, la libertà, e viva l'unione, la libertà, e viva l'unione, la libertà. Cioè sostituito a Pio IX l'unione, perché come sapete, a proposito di federalismo, che ce n'era nel Risorgimento, i cattolici, in particolare i seguaci di Gioberti, avevano queste idee, il federalismo poteva essere, secondo Gioberti, con alla testa di questo paese in qualche modo unificato ma federale il pontefice, se non che le cose andarono diversamente. Mazzini non era mica d'accordo perché era un unitario duro, altri invece anche a sinistra, anche nel suo campo, erano federalisti, poi lo vedremo, uno come Carlo Pisacane era federalista, Cattaneo il più celebre di tutti, il più rinomato, ma per dire Pisacane che non era per niente, era mazziniano, ma oggi diremmo anarco-insurrezionalista, peraltro. Io non so come farò andare avanti senza il microfono, perché la voce io ce l'avrei, però voi non sapete come si può. No, c'è un. No, ma non è. C'è un microfonino. No, perché sono inquieto per alcuni. Guarda, proviamo a sentire, perché io devo misurarmi con quelle due bestie lì, non loro due. Le due bestie sono gli strumenti. Allora, siamo arrivati a un punto interessante, però, perché avete capito. Vediamo, può darsi anche che non ci sia bisogno, ma senz'altro per un pezzo, dopo poi suonare anche la cornamusa e le galte. Ecco, allora, fa vedere se... Ma questo sì, lo posso usare con... Sì, vabbè, io vado avanti senza adesso per un momento, dopo quando sarà, capirete perché. Allora, siamo arrivati però a un punto interessante, perché... avete immaginato, visto i calciatori per anni e anni che facevano questo inno d'Italia così. Sapete tutto di Mameli. Mameli, pover'uomo, adesso lì ci aveva pigliato Benigni a Sanremo. Mameli è uno dei tanti che fanno questa rivoluzione nazionale, che sono per lo più studenti, ma non solo studenti, anche artigiani, operai, contadini pochissimi. E sono giovani dai 13-14 anni ai 21-22 come lui. Pensate a quanti muoiono per strada, a parte lui, Mameli, anche uno come Ippolito Nievo, ma ragazzi, ma muore a 31 anni e fa in tempo a scrivere quello che scrive. C'è una cosa da domandarsi, ma cosa avrebbe fatto se fosse andato avanti? Magari non avrebbe fatto niente, ma bastano le confessioni di un italiano. Lui che comincia, nacqui veneziano e morirò italiano. Cioè, io sono invece nato veneto e c'è il rischio che sono nato italiano e rischio che muoia solo veneto, perché non si sa cosa mi aspetta, ma però per dire, io adesso qui non ve lo infliggo, domani con questo spettacolo qui siamo in due teatri diversi alle 8 di sera e a mezzanotte, perché facciamo la doppia, termine ambiguo quant'altri mai, ma insomma facciamo la doppia esibizione in teatro, per fortuna con tutte le amplificazioni del caso, ma nel pomeriggio faccio anche una conferenza da professore, la cravatta ce l'ho in fondo, dopo me la metto, e lì dedicherò uno spazio molto più ampio di questo al buon Goffredo Mameli, che era classe 1827, e che fece in tempo a scrivere una quantità di cose, al di là delle poesie e degli inni, va bene? Che uno se le va a guardare, resta, e quando legge un italiano molto friendly. Qui siamo a Roma, siamo in vista, siamo alla vigilia della Repubblica Romana, siamo nel 49, e lui è già arrivato a Roma dopo averne combinati tutti i colori e scritto a Genova, a Torino, sui giornali, alcuni fondati anche da lui. Scrive su questo giornale romano, Pallade si chiamava, l'11 gennaio del 49, quando c'era in piedi la discussione sulla Costituente. Dovevano fare la Costituzione, che poi sarà fatta quella della Repubblica Romana, proprio il giorno stesso in cui i francesi posero fine all'esperimento. Sentite cosa scrive per dire l'articolo intitolato "I candidati alla Costituente e che caratteristiche dovrebbero avere". Prima indispensabile dote nei suoi candidati, il nostro giornale cercherà quell'onestà personale e pubblica che fa di un uomo pubblico un apostolo, di un'opinione una credenza, di un partito una religione. Noi vogliamo uomini che sentano quello che dicono, vogliamo la verità e crediamo che in essa stia la forza. Ditemi se io la leggo oggi, uno dice: ah, lei è tendenzioso perché come vuole che nessuno sia al di sopra della legge. No, ma questo viene scritto nel 1849 come premessa per una cosa che tutti sanno essere il patto fondamentale, perché ricordatevi che quest'anno è il 150esimo, non tanto semmai esista pura dell'etnia italiana o della nazione italiana, anche vedendola misericordiosamente in termini ottocenteschi, è il 150esimo anniversario della nascita di uno Stato che ne ha combinate poi di tutti i colori, perché nessuno di noi ha dimenticato né Bronte, né la guerra del brigantaggio, né la prima guerra mondiale con tutte le stragi che non voleva fare nessuno, i contadini non la volevano fare, non la volevano fare neanche i parlamentari che andarono da Giolitti a dire no, non si fa, poi la guerra venne fatta lo stesso. Il dramma è che anche in quell'episodio lì della guerra, cosa successe? Che attraverso un'esperienza drammatica imposta dall'alto, ai noi, e pensate che la storia delle canzoni lo dimostra, venne formando una coscienza nazionale molto più diffusa, molto più condivisa, molto più partecipata, se non altro perché nelle trincee, condividendo gli stessi pericoli, le stesse disperazioni, impararono a conoscersi persone di varie parti d'Italia. Notate che a quell'epoca, almeno nel primo inverno di guerra fu così, la stessa sensazione e il desiderio di conoscere gli altri c'era anche nelle trincee degli eserciti opposti, e gli storici sanno che vennero nella notte di Natale del 1914 vennero fatte delle tregue d'armi su tutto quanto il fronte, perché ai soldati proprio non pareva possibile che si dovesse fare sto macello. Allora qui arriviamo al punto, dico tutta questa pappardella per dire: guarda che quello che accenno adesso è il canto degli italiani. Lo aveva scritto Mameli nell'ottobre del 1847, il 10 novembre lo aveva inviato a Torino a un suo concittadino genovese come lui, erano tanti genovesi, anche Garibaldi a suo modo era genovese, ma Mazzini era genovese, Manara era genovese, Bixio era genovese. Michele Novaro scrisse di getto la musica, questi versi che trovò eccezionali. E questa canzone, questo inno, venne cantato per la prima volta il 10 dicembre, quando sul piazzale del santuario di Nostra Signora di Loreto, a Oregina, a Genova, i cittadini genovesi che lo avevano mandato a memoria lo cantarono in occasione del centenario addirittura della cacciata proprio degli austriaci, quelli del Balilla fischia il sasso, il nome squilla, e venne suonato dalla filarmonica sestrese. Era un momento di grande eccitazione e mancavano pochi mesi allo scoppio delle rivoluzioni del 48, che erano già nell'aria. Era appena stata abolita nel genovesato, i genovesi non erano mica tanto d'accordo con i Savoia perché avevano subito l'annessione e non gli piaceva. Ma comunque era stata abolita una legge che impediva l'assembramento di più di 10 persone. Pare però che quella sera, il 10 dicembre, fossero in qualcosa come 30.000. Queste sono le cifre degli organizzatori, la polizia dava 3.000, non si può scappare a questo. E Nino Bixio organizzò la notte dei fuochi, mentre cantavano questo inno, che diventerà poi alla lunga l'inno nazionale, tutta la conca dei monti dell'Appennino soprastanti Genova venne illuminata da questi roghi. Ora, già alle prime giornate delle 5 milanesi, era conosciuto e cantato, e fu cantato effettivamente, diciamo che in ordine di gradimento si può collocare al terzo, quarto posto. Quelli che sono ai primi posti per gli italiani ve li faccio sentire dopo, ma adesso lo accenno come è giusto che si possa fare, senza bisogno che vi mettiate sull'attento in piedi, semplicemente perché è quell'altro documento che ci mancava. Non lo canto, fratelli di l'Italia, l'Italia sedesta, dell'Emo di Scipio si cinca la testa. Dov'è la vittoria? Porca la chioma, e schiava di Roma. La ripresa, come sapete, del tornello, che è il Dio la creò. Qui c'è il paraponte, che è un po' un azzardo. Fratelli d'Italia, Italia se ne sta, dell'Emo di Scipio se finta la testa, dov'è la vittoria, che porga la chioma, che sta messo così ha più senso, cioè sembra, è collocato nel suo tempo, e sta bene che sia così, però qua, Maria Vergine, che problemi. Vediamo, forse addirittura qui farò uso dell'arnese, perché sento non le forze venirmi meno, un'anima pietosa mi porta, ma perché non ho preso il vino rosso? No, è vero, sapete che ha una funzione lubrificante. Va bene, allora vi faccio fare un salto mortale, capriato, all'indietro, una capriola, ma di quelle. Allora, spostiamoci indietro nel tempo, abbastanza, geograficamente magari più vicino a Bolzano in un certo senso, dal punto di vista linguistico-culturale senz'altro. Per trovare cosa? Per trovare un esempio di radici, come si usa dire, e di presupposti testuali, musicali, in questo caso direi soprattutto musicali, ma creiamo un po' di suspense. Siamo nel 1770, è un personaggio abbastanza rilevante nella cultura europea di quel tempo, anche se allora giovanissimo, Goethe, arriva a Strasburgo, perché deve incontrare Herder, altro personaggio non da poco, nella genesi di quelle cose che poi saranno anche il romanticismo ottocentesco, sì, i canti dei bardi, Ossian e Omero e Tirteo e quant'altro. E da questo incontro Goethe trae l'ispirazione per fare anche lui una cosa che poi tante volte altri intellettuali avranno rifatto, i musicisti anche, andare in cerca della genuinità dell'anima del popolo, e si mette a ricercare canti, e lì in Alsazia. Mi presenta Alsazia, Lorena, ecco, bravo. Se non che è giovane e a Sesenheim, una località vicina a Strasburgo, si innamora della figlia del parroco, che si chiamava Federica Brion. Non so se parente dei Brion Vega, i televisori, ma comunque. E quando pubblica l'antologia dei canti popolari alsaziani, sostanzialmente raccolti in quella zona lì, la dedica a questa Federica. E i critici, gli esperti di queste cose, dicono che sostanzialmente in questa opera si ravvisa già l'esempio da parte di Goethe di una rottura delle convenzioni amorose settecentesche, l'origine proprio di questa cultura che prevede la libera espressione di sentimenti personali e anche amorosi. Ora però nell'antologia che viene poi pubblicata nel 1771 e intitolata Sesenheimer Lieder, c'è anche un canto di soldati, un canto di mercenari alsaziani, che fra l'altro, a leggere tutto il testo, io l'ho letto tradotto perché è tedesco chiaramente, e lo dico a Bolzano, quindi fuori da ogni opinione, non è che lo so, leggo i titoli se va bene, ma ho letto la traduzione, ed è un testo che riguarda i soldati mercenari e ha delle punte anche di vago precoce antimilitarismo. Tuttavia la prima strofa recita così, dice: o Strasburgo, Strasburgo, tu meravigliosa città in cui giace sepolto un virile soldato, di cui poi la madre va a chieder conto al capitano perché è morto, dammi il corpo, e qua e là, e lì vengono fuori gli accenni antimilitaristi. Ma è inutile che faccia tanto lunga, o col microfono o senza. Yeah. strofe, strofe, strofe. E dice uno, ma com'è? È successo. È successo? È successo che se voi andate a vedere chi ha scritto questa canzone, trovate, è stata scritta dall'avvocato Fiorentino Carlo Bosi nel 1847 ed è una canzone che si cantava, venne cantata soprattutto a Curtatone Montanara dalla studentesca pisana, dagli studenti toscani. Bosi era un patriota, fu poi anche magistrato, patriota e liberale, pubblicò nel 1859 questo testo e la musica c'è sempre scritto di anonimo. Allora lì però il professor Franzina, che è astuto come una martora, avendo sentito O Strasburgo, O Strasburgo, lo trovate anche nei repertori dell'innodia militare nazista, avendolo sentito ho detto c'è qualcosa che non mi quadra, e mi è venuta una vaga illuminazione, è una congettura, la musica l'avete sentita, è quella lì, non si scappa, all'inizio forse no, ma il ritornello è lui. Allora c'è un piccolo dettaglio, chi è che governava in Toscana dove Bosi scrive queste cose? Erano gli Asburgo Lorena, e le bande reggimentali erano una delle, come dire, corone sonore di piazza correnti, cioè nelle piazze suonavano, adesso con il 150enario vedo che rifioriscono, ci sarà la fanfara degli Alpini, la fanfara dei Bersaglieri, ma Bosi l'ha sentita e qualcun altro come lui, quello a cui si è rivolto per dire mettici la musica a queste parole, oppure addirittura le ha messe lui, o come qualche volta succede a noi, non so se a voi, ma a me sì succede, io ho scritto delle canzoni stupende, sono andato avanti a cantare, ho detto ma che bravo che sono, dopo 3-4 mesi mi sono accorto che in realtà non era mia la musica, ma era la musica di una magari famosa canzone di Endrigo e io ci avevo messo delle parole bellissime e a quel punto non lo potevo più usare se non come contrafactum. Ora arriviamo a un punto anch'esso interessante che riguarda queste canzoni che proliferano e che sostengono evidentemente lo slancio di tutti questi giovani che hanno degli obiettivi che, ripeto, all'inizio sono essenzialmente di carattere politico. Oh, che bello, voce anche a loro però. Guardate, esistono in farmacia delle pastiglie per ravviare la voce, ma non c'è niente, io non potrei neanche, perché questo lo faccio, se mi vede il mio medico mi spara, sì, no, una volta non bastava, adesso con questo deterologico anche, siamo sempre in questo giro d'anni, perché il clou del risorgimento è effettivamente l'anno delle rivoluzioni, la primavera dei popoli di tutta Europa, ma guardate che già lì, non solo nei mille, con Garibaldi a combattere per l'unità d'Italia o per l'indipendenza d'Italia, ma c'erano anche tanti che a stretto rigore dovrebbero essere stranieri, c'erano gli ungheresi, c'erano i polacchi, c'erano anche gli esuli tedeschi, ma guardate che è stata una roba molto complicata. Se voi fate l'analisi dei mille, erano solo i clericali e gli intransigenti, gli apocalittici di allora che volevano vedere a tutti i costi il male e si scandalizzavano perché c'erano dei ceffi strani, compresi quelli che Garibaldi si era portato poi dall'America Latina, qualche negro. Cioè, ma dico io, non, a Verona l'ho fatto per esteso, perché a Verona mi avevano contestato i venetisti, ma se voi leggete le cose che scriveva nel romanzo L'ebreo di Verona, padre Antonio Bresciani, uno dei pilastri della neonata civiltà cattolica di allora, che sono loro che fissano il canone demonizzante del garibaldino e del rivoluzionario quarantottesco, voi vi trovate queste robe qua, i volontari della rivoluzione italiana e i garibaldini, qua siamo, è un appendice all'ebreo di Verona comparsa sull'unità cattolica, sulla civiltà cattolica, l'unità cattolica è un giornale intransigente di Don Margotti, ma questo è un altro paio di maniche, la descrizione che fanno dei volontari, di questi che dall'altra parte sono considerati i patrioti, tu devi sapere che il Garibaldi in quei giorni a Roma si trovava con le sue masnade venuteci di Toscana, le quali sono il fiore di tutti i facinorosi, soldati a Montevideo e poi su tutte le marine d'Occidente e per ultimo scelti fra i più feroci banditi di Lombardia, di Provenza e delle Romagne, degli Abruzzi e delle Calabrie, venati a piedi e a cavallo, gli uni più orrendi degli altri, pezzi di uomini grandi, audaci, pronti, abbronzati proprio scritto così, massicci, tutti muscoli e nervi, con occhi biechi e torvi e cipiglio aggrottato e scuro, e va avanti così. Questa è l'immagine che dà la pubblicistica reazionaria dei patrioti italiani. Quindi oggi quelli che bruciano il pupazzo di Garibaldi e fanno queste cose usando questa stessa terminologia non fanno nient'altro che dichiarare chiaramente la loro discendenza o ascendenza, secondo i punti di vista, ognuno è libero di scegliersi i parenti che vuole. A un certo momento, oddio, è difficile, sapete, si può scegliere la patria, perché è giusto che la patria venga anche scelta. È una scelta quella di essere italiani. Se io accetto le leggi di questo Stato, posso dire che sono anche italiano. Poi, così come uno dice, io poi sono tirolese, benissimo, io sono veneto, io non ho niente da invidiare ai venetisti, mi sento veneto, no? Vi faccio grazia del dialetto, ma io lo parlo correntemente, è vero, noi altri parliamo in dialetto fra noi altri, però ecco, si tratta di intendersi, insomma, non si vede perché gli inni, le canzoni, e anche vedremo ancora le canzonette, hanno questa funzione. Fra l'altro notate che qualcuno di voi se lo ricorderà qui dentro, mi pare di capire che ce n'era più di uno, che nel 1961, quando si celebrò il 100° anniversario dell'Unità, venne fatto qualcosina di più, anche dal punto di vista musicale. Ve lo ricordate Renato Rasce? Ve lo ricordate Domenico Modugno? Vi ricordate che misero fuori delle cose che sembravano... Modugno scrisse una canzone che adesso vi accennerò, che è intitolata La bandiera, perché è la canzone che si immedesima nel vessillo. Ma i tre colori, che è il titolo anche di una trasmissione radiofonica, dove domani, se vi sintonizzate alle 2 del pomeriggio su Radio 3, l'intera puntata intitolata Inni e canzoni del Risorgimento è registrata, perché sono qui stasera, non vado a Roma domani mattina per risa, e sentirete il resto di quello che non vi racconto a Bolzano oggi. I tre colori, sentite, Giovanni Berchet: il verde, la speme tant'anni pasciuta, il rosso, la gioia di averla compiuta, il bianco, la fede fraterna d'amor. Luigi Mercantini, quello della Spigolatrice di Sapri e altre cose. Tre colori, l'italian cantando va, e cantando i tre colori il fucile imposterà. Anonimo, raccolta a Firenze nel 48. Il vermiglio ti dice che il cuore arde in petto del prode italiano, ed il bianco ti addita il candore e la fede di chi vola a pugnare. La speranza d'Italia nel verde, finalmente vi trovi scolpita la speranza che l'ultima perde, chi si accinge la patria a salvare. Antonio Peretti, minore, non noto come Berchet o Mercantini: rosso i prodi a guerra invita, verde e speme, bianco e amor, e il vessillo d'Italia unita è il vessillo tricolore. E allora cosa ti fa uno come Domenico Modugno? Dico Domenico Modugno, quello dell'uomo in frac, mica ceci, una cosa, non mi ricordo più in che accordo se che facevo questo qua, ma, no, perché qua in sol, sì. Forse qualcuno l'ha sentita, ma 50 anni fa. Io sì, me la ricordo, mi è rimasa impressa, tant'è che ho verificato di recente che anche mia sorella, che è più giovane di me di 4 anni, se la ricordava del pari. Col bianco delle nevi delle Alpi, col verde delle valli di Toscana, col rosso dei tramonti siciliani, noi facemmo una bandiera, bianca, rossa e verde la bandiera tricolor, bianca, rossa e verde la bandiera tricolor, col bianco dei capelli di mia madre, col verde di due occhi tanto belli, rosso, rosso sangue dei fratelli, noi facemmo una bandiera, bianca, rossa e verde la bandiera tricolor, bianca, rossa e verde la bandiera tricolor, e la bandiera dei tre colori sempre sta. Strofa irridente, noi andremo a Roma Santa, entreremo in campi d'olio, pianteremo su quel soglio la bandiera tricolor, pianteremo su quel soglio la bandiera tricolor. Non erano mica tanto pacifici, questi erano. E quando dicono noi andremo a Roma Santa e entreremo in Campidoglio, pianteremo la bandiera tricolore, dicevano una cosa precisa che poi hanno anche fatto, sebbene l'abbiano fatta in Savoia. La faccenda delle canzonette non la perdo per strada, perché qua devo farvi presente una cosa che vale non per Bolzano, varrebbe per Trento. A proposito, dopo domani sera e domani... No, post domani sera, il 18 a Trento, al Teatro Cuminetti, faccio un altro spettacolo risorgimentale che si intitola L'altro mondo del generale, tutto su Garibaldi, e là avrebbe anche più senso per il pubblico, ma non per la trama, perché va bene qua parlare di una canzone che molti italiani conoscono e che ha la dà la possibilità di ragionare su queste contraddizioni dell'identità, i trentini. Adesso sentite perché i trentini. Allora, qui abbiamo una canzone che forse qualcuno di voi potrebbe anche cantare, tutto sommato. È del 1849, è Gemmaria Vergine, ma sul serio, sul serio. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento, venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia, con questo zeffiro così soave, oh come bello star sulla nave, su passeggeri venite via, Santa Lucia, Santa Lucia. Voi sapete che questa canzone, io a Verona poi mi sono divertito perché gli ho citato l'episodio della battaglia di Santa Lucia, se non sbaglio, no, è diverso. Fu un episodio, perché la canzone sapete che è popolarissima oltre che in Italia in tutti i paesi scandinavi, cioè la festa di Santa Lucia ha fatto sì che sia stata tradotta in svedese, in norvegese la cantano come dei matti, però, e qui viene fuori Trento e Trentini per dire cos'è l'italianità. Effettivamente ho detto la mia patria è la mia lingua, però ascoltate, tratto da un quaderno di una scrittura popolare, si chiamava l'autrice Amalia Vivaldelli, trentina, la provincia di Trento, non mi ricordo più che località, è datata 1 novembre del 1915 ed è una canzonetta cantata, questo è il titolo, dai nostri tirolesi sull'aria di Santa Lucia. I tirolesi in questione non sono i tirolesi tirolesi, sono i tirolesi trentini, cioè i trentini, va bene? La raccolta Quinto Antonelli in un libro di tanti anni fa intitolato Storie da quattro soldi. Sentite come funzionava nella versione, siamo nel novembre del 15, l'Italia è entrata in guerra nel maggio, l'Austria-Ungheria è in guerra dall'agosto del 14. Questo cantano dei soldati, non tutti evidentemente, non lo dico anche a te che vivi a Pergine tanto perché così sono. Sul mare vigila la nostra flotta, sul crau l'armata vince la lotta, evviva l'Austria e l'Ungheria, Santa Lucia, Santa Lucia, vicin l'Isonzo sta Emanuele, col naso in aria guarda le stelle, una sorella, lasciami entrare Gorizia mia, Santa Lucia, Santa Lucia, anche Cadorna canta il terzetto, terge le lacrime col fazzoletto, perché non vieni vittoria mia, Santa Lucia, Santa Lucia, e gran finale, arrivederci dunque italiani, forse a Milano oggi o domani verremo a prendere la Lombardia, Santa Lucia, Santa Lucia. Come dire, ragazzi, non scherziamo, perché se mi ci metto io li rovino. Il problema mio, sapete qual è? È che non passo in televisione, neanche in quelle locali. Sono da 10 anni vagamente in politica per via della base militare di Vicenza, e nella mia città, dove ne esistono 3 di televisione che chiamano anche il can del Pignataro, non sono riuscito a esprimere una volta un parere su qualsiasi argomento. Ora però andiamo avanti con la storia, perché il 48 è pieno di fatti, come dire, anche onorevoli, ma anche di disgrazie, una delle quali è la fine mesta di Venezia, che io vi propongo in una versione pastiche, perché l'aria, la musica è tratta da una canzone dedicata ad Anita Garibaldi dal gruppo di Cantacronache nel 1959. È una canzone in realtà diciamo adattata, è la poesia di Arnaldo Fusinato, che faceva così: e fosco l'aereo in cielo e muto, ed io sul tacito Veron seduto, in solitaria malinconia, ti guardo e lacrimo Venezia mia, passa una gondola nella città, e dalla gondola qual novità, il corpo in furia, il pan ci manca, sul ponte spento la bandiera bianca, ma il vento sibila, ma l'onda è scura, ma tutta in tenebre è la natura, le corde stridono, la voce manca, sul ponte spento la bandiera bianca. Nobile esempio di adattamento per musica di cose che insomma sono più recenti. La musica è fatta da compositori di giorni nostri, Cantacronache che aveva grandi musicisti come Sergio Liberovic e autori di testi come Italo Calvino, ma non credo che sia di Calvino questo. Passiamo direttamente a questo punto ad una fase che ci introduce poi alla conclusione del discorso, dedicata a... se problemi i telefonini? No, ma è il telefonino, ma se è intonato noi lo accettiamo. Dimenticavo un piccolo dettaglio, che sapete com'è la faccenda, prima i testi, no? Pallosi, retorici, quello che sto per cantare adesso è anch'esso un testo, insomma, però quanto non è piaciuto, è il secondo in ordine di preferenza degli italiani come inno nazionale, dietro c'ha Lino di Mameli e davanti un altro che troveremo dopo, però sono le parole, dicevo prima, delle poesie del tempo. Io qua ce l'ho tutta, perché io ce l'ho il testo, ma io le so a memoria alcune, perché una volta, vi ricordate, se le facevano imparare, quando nel 1856 siamo già passati dopo il 48, c'è il decennio di preparazioni, martiri di Belfiore, Amatore Scesa, le giornate di Milano dimenticate nel 1853, e poi scoppia la guerra di Crimea, i piemontesi che mandano i bersaglieri, nel 1856 fanno la pace di Parigi e vicino a Lugano, in Svizzera italiana, staziona Giovanni Visconti Venosta, che è della parte italiana verso Porlezza, è lì che è un giovanotto che fa l'università e che ha un buon nome, è la mamma di un allievo di quelli Zucconi che aveva avuto un penso, anzi un tema, gli davano i temi di scrivere in versi, gli davano l'argomento, dice le crociate, e scrivere in versi la storia delle crociate, poverini, e loro facevano queste robe qua, e sto ragazzo aveva cominciato scrivendo passa un giorno, passa l'altro, più non torna il prode Anselmo, perché gli era molto scaltro, andò in guerra e mise l'elmo e gli si era bloccato, la mamma non sapeva come fare, andò da sto Venosta, che poi diventò anche ministro a fine 800, e disse ma bisogna continuare, e lui naturalmente per un po' di quattrini si evitò. Allora, se passa un giorno, passa l'altro, più non torna a Padre Anselmo, perché gli era molto scarto, di guerra mise l'elmo sulla testa per non farsi troppo male, e partì la lancia in resta a cavallo d'un cavallo. La sua bella che abbracciò, gli diede un bacio, disse va, e ponegli ad armacollo la fiaschetta di vista. Poi donatogli un anello, sacro pegno di sua fe, gli metteva nel fardello fin le pezze per i piedi. Fu alle 9 di mattina che l'Anselmo partì per andare in Palestina a compiere la vela. Poi va avanti per circa altre 4 pagine, inutile che ve la racconti, perché se no la voce sibila e il fiato manca sul ponte svento della bandiera bianca. La realtà è che c'erano questi fatti, dicevo, del secondo inno, quello che poi dopo che è caduta Venezia in quegli anni fra il 49 e il 59, molti scappano e vanno esuli, per lo più in Piemonte, dal Lombardo-Veneto vanno in Piemonte, ma tanti vanno anche all'estero. Guardate, c'è anche una storia di emigrazione politica, prima ancora di Garibaldi, che sarà andato per tempo negli anni 30 in America Latina, ad esempio, tutte robe su cui ho scritto libri ponderosi che non valgono praticamente nulla, non in sé, ma per quello che mi possono portare, o in denaro o in notorietà. Beh, resta il fatto che è, avevamo detto fin dall'inizio, il secolo della musica lirica. E allora, per forza, quando nel 1842 Giuseppe Verdi, che era un patriota, era mazziniano anche, Mazzini aveva scritto un saggio di filosofia della musica splendido e aspettava un profeta come Verdi che arrivò, si materializzò. Ma quando nel 42 Verdi scrive il Nabucco, il coro suo della Delchi, e della Delchi, quello del Manzoni, del Nabucodonosore, è un coro che viene interpretato all'inizio, giustamente come era, come un canto di proscritti, di esuli. Ma man mano cresce e nel 48 è già sentito e cantato come un canto nazionale, patriottico, come un inno. E non c'è niente da fare. Adesso che i leghisti abbiano pensato che è loro, è legittimo, perché ognuno delle canzoni, tutti sono padroni, uno scrive la canzone, l'autore è sua senz'altro, ma poi è di chi la canta la canzone, ed è giusto che se lo tengano anche se vogliono come inno, ma sappiate che per lunghissimo tempo è stato considerato l'inno, diciamo, in seconda degli italiani. Vediamo poi qua se... Ah sì, mi ricorda una gag, me la stavo dimenticando, che però non è mia, l'ha segnalata a un noto giornalista, Michele Serra, un lettore che aveva visto passare una macchina bardata col sole delle Alpi, molto verde, con scritto sopra "va pensiero sulle ali dorate di apostrofo orate", che è... è così la vita, ma non so se... Proviamo? Sette volte può fare anche la gaita, pensiero sull'ali dorate, vai chi posa sui pini e sui colli, ove orezza lo stessi demoni. Lice vendi le memorie nel cesto riascendi, ci fa vela del tempo. Sono le pagine così, insomma, un po' tristi, ad esempio questa, l'ho detto prima, Pisacane, fra l'altro, diciamo la verità, Pisacane, Mazzini lo vedeva così, così. Mazzini, sapete, aveva i suoi problemi con Marx, Engels e anche Garibaldi. Con Pisacane ha più difficoltà, era un nobile e un ufficiale borbonico che aveva disertato con una storia d'amore bellissima, che è la ragione per cui lui abbandona anche la carriera militare, e che è il più grande teorico sia della guerra per bande, assieme a un piemontese che si chiamava di San Giorgio, ma lui scrive sulla condotta della guerra, della guerriglia, insomma, delle cose interessanti, e inoltre espone delle teorie sue che non sono più né sansimoniane né fourieriste, ma sono propriamente vicine a quello che si chiamerà poi il comunismo, che fa molta paura, perché ad esempio a Venezia durante la Repubblica di Manin c'era tutta un'ala sinistra composta di matti scriteriati, metà dei quali poi cambiano bandiera e diventeranno anche ministri del Regno d'Italia. Ma insomma, Pisacane non fa in tempo, perché è, diciamo con parole giovanilistiche, sfigatissimo, nel senso che Pisacane finisce male negli stessi identici luoghi dove 3 anni più tardi passerà osannato dalle plebi meridionali Garibaldi. Quindi poi parte con una ventina di volontari, così come avevano fatto i fratelli Bandiera 13 anni prima, siamo nel 1857, e si ferma a Ponza e libera dei carcerati dalla galera di Ponza. Quindi i 300 giovani e forti di cui parla Mercantini per 3/4 erano effettivamente e probabilmente dei banditi. La cosa finisce malissimo. Mercantini scrive La Spigolatrice di Sabri e idealizza, inventa, rende potabile un'avventura drammatica, tragica. Alla fine lui e i suoi luogotenenti, dico Pisacane, i suoi collaboratori più stretti, si suicidano. Non è neanche che vengono fatti a pezzi dai contadini. Eppure nel canone risorgimentale, grazie alla Spigolatrice di Sapri, erano 300, erano giovani e forti, rimane fissato così come... E qua dopo vi darò le musiche da dove vengono. Venni meno reagisce a questa capacità di inventarsi, poverina, questa è la ragazza che vede il giovane, in realtà poverino si è suicidato, pensate che tragedia. Eppure tragedie ce ne altre. Nel 1858 non c'è l'attentato a Napoleone, ve lo ricordate, quello di Felice Orsini che era un rivoluzionario romagnolo, repubblicano, mazziniano di sinistra, assieme a un lucchese che si chiamava Pieri e un bellunese, un veneto che si chiamava Di Rudio, che io qua non la posso far lunga perché sono già fuori orario, è poi protagonista di una storia mirabolante, è quello che tira la bomba contro Napoleone III, verrà graziato perché sua moglie era inglese, aveva combattuto a Milano alle Cinque Giornate, a Venezia, alla Repubblica Romana, e viene mandato a morte, ma graziato all'ultimo momento per intervento di Lord Palmerston e della regina Vittoria, e viene mandato in Cayenne, quella di Papillon, e lì resta 8 mesi e poi scappa e torna in Europa. Quando Mazzini si vede davanti gli vengono i capelli ancora più bianchi del solito, e siamo già nel 61, ha paura che comprometta l'unità d'Italia, e gli dà delle lettere di raccomandazione. Nel 62 questo si imbarca e va via dall'Inghilterra e raggiunge gli Stati Uniti d'America, crede di poter fare l'ufficiale perché è un uomo d'armi, non ha ancora 30 anni, invece viene arruolato nel 7° cavalleggeri, anzi prima nel 12° cavalleggeri di New York e poi nel 7°. Il 25 giugno del 1876 è l'unico ufficiale italiano nel settimo cavalleggeri di George Armstrong Custer alla battaglia del Little Bighorn, e porta a casa le penne. Sarà testimone d'accusa nel processo di Chicago del 1878 a carico di Custer, che aveva fatto una grandiosa cazzata, scusate il francesismo, e diventerà poi direttore del campo di concentramento in cui gli americani rinchiudono proprio Pelle Rossa sconfitti, le nazioni indiane sconfitte in quella battaglia, tra cui i capi, ci sono le sue foto di Rudio con Nuvola Rossa, con un toro seduto, fa impressione. Morirà nel 1910, così come nel 1922 morirà un altro dei 6 italiani che erano nel 7° cavalleria, che si chiamava Giovanni Martini, gli americani lo chiamavano John Martin, che è l'unico della colonna di Custer a portare a casa la pelle, perché Custer quando vide, ah, quanti indiani, disse, quanti, credeva di avere i soliti vecchi e bambini, invece c'erano in giro 5-6 mila guerrieri, e lo mandò a chiedere rinforzi, era un greenhorn, come dicevano gli americani, cioè uno arrivato di fresco, sapeva poco l'inglese, gli scrissero anche cosa doveva, cioè il messaggio, che lo vedete, cioè se volete andare a West Point c'è ancora in bacheca, e c'è scritto sopra, rivolto a uno degli ufficiali di Custer che erano nelle due colonne laterali, distante però 6 km di uno, 8 km l'altra, come quick, big village, venire de corsa che se piende indiani. E quello lì morì nel 1922 a Brooklyn, dopo aver fatto il bigliettaio nella Subway di New York. Intanto qua quante robe non vi dovrei raccontare, ma vi racconto solo in 3 pezzi, come diceva quella del bikini, la morte di Orsini e Pieri, una tipica ballata, morte di Orsini e Pieri, stati condannati dalla Corte di Assise di Parigi per avere attentato alla vita di Napoleone III. All'Eterno pregate italiani per Orsini, quel prode e quel forte, che dannato a ingiustissima morte, con fermezza la seppe incontrar. Solo i tristi dal cuore migliacco ad Orsini contrastan l'onore, perché Italia serbava l'amore e moriva per la libertà. E Orsini fu ucciso a Parigi, la memoria sua ancora è vivente, di un tiranno crudele o furente, no per Dio far tacer la potrà. Ieri disse apprestate il calvario, l'affrontiamo ma senza paura, dalla nostra feral sepoltura noi faremo i tiranni tremar. Quando il capo di Pieri fu tronco, il gran martire Orsini da forte lo rimira e sprezzando la morte, mille in viva l'Italia mandò. Italiani vi serva di esempio, di quei grandi di Fausta sventura, che son morti con l'anima pura, per l'Italia e per la libertà. conosciuto l'aria di incanto, la cantastorie. Questa è un'aria da cantastorie, ma le arie che fanno il risorgimento, eccolo il vero inno nazionale. Siamo nel 1859 e viene inventata una canzone la notte di Capodanno del 58, siamo al 31 dicembre del 58 a Milano, al teatro Carcano, quello di Iannacci, in pe, al teatro Carcano, il maestro Rossaro, probabilmente roveretano dal cognome, fa ascoltare una canzone che è in realtà di matrice popolare, composta per la musica da un certo Paolo Giorza. Diventerà un compositore famoso, ma morirà povero, esule, o meglio emigrato negli Stati Uniti a Seattle nel 1914. La canzone dilaga, letteralmente. Già quella sera lì chiedono 8 volte il bis e poi trascinano fuori l'orchestra e il maestro e a mezzanotte lo portano sotto il palazzo del governatore austriaco e gli rompono le balle fino alle 4 di mattina. Una cosa allucinante. La canzone è così bella, la cantano tutti, tutti sanno le parole. Alla battaglia di Magenta, quando praticamente è scoppiata la seconda guerra di indipendenza e Napoleone III si è unito a Vittorio Emanuele, l'esercito franco-sardo sconfigge gli austriaci sul campo e si apre le porte di Milano, la banda militare austriaca intona, perché usava così, era una gran bontà dei cavalieri antichi, intona come segnale d'attacco l'inizio della bella Gigogin e la banda degli zuavi francesi risponde con daghe davanti un passo, robe da matti. Rataplan, tamburio sento che richiama la bandiera, oh che gioia, oh che contento, io vado a guerreggiare. Rataplan, non ho paura delle bombe e dei cannoni, io vado all'avventura, sarà poi quel che sarà. Ah, e la bella Gigogin corra lilla rindellera, la va spasso con sospizi, oltre a lilla rindellera. 15 anni faceva l'amore, dacchi davanti il passo, delizia del mio cuore. A 16 anni ho preso marito, dacchi davanti il passo, delizia del mio cuore. A 17 mi sono spartita, dacchi davanti un passo, delizia del mio cuore. La ben, la ben alla finestra, le tutta, le tutta, le tutta in cipriata, la dis, che l'è malata, per non mangiar polenta, bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza, lasciarla, lasciarla, lasciarla marita. Le baciai il bel visetto, ciu ciu ciu, lei mi disse, un mio diretto, ciu ciu ciu, la più bassa in quel boschetto. Andremo, andremo a riposare. Poveri nostri nonni, pensate come, come si divertivano con i doppi sensi. Ma che bunga bunga, oddio. Qua ve ne faccio grazie perché sono già arrivate le 8, siamo in ritardo, ma perché siamo anche partiti alle, 8, alle 7 meno un quarto, di un'impresa ciclopica. Dico vi faccio grazie al bunga bunga, però sappiate che tolto Mazzini, e chiaramente ebbe una sola storia importante con Giuditta Sidoli, ebbe anche un figlio, poverino, gli morì prestissimo e quindi niente da fare. Però era effettivamente uno ascetico, diciamo la verità, i Mazzini. Sì, ha avuto anche qualche altra storia, però di fatto no. Mentre quegli altri tre ragazzi, gli altri tre padri a patria, ma uno peggio dell'altro. Intanto, quello a cui va applicato il termine di padre a patria, Vittorio Emanuele II, gli spetta per il numero di figli che ha disseminato in giro, specialmente in Piemonte. Voi sapete tutti la storia della bella Rosin, la Rosa Vercellana, matrimonio morganatico, però vi dico io qua no, però dopo domani notte a Verona, alla notte bianca, bianca, rossa e verde di Verona, io ce l'ho qua, ce l'ho qua. Io leggo per esteso il passo, edito solo adesso, io l'avevo già letto 20 anni fa perché era nella tesi di laurea di Dante Isella, che non l'aveva mai potuta pubblicare, è uno dei 36 pensieri che diciamo, la famiglia, gli editori non avevano voluto inserire nelle Notti Azzurre, pubblicate per la prima volta nel 13 in edizione ridotta, poi nel 64 da Delfi, nell'89 di nuovo da Delfi e adesso in questa versione che ce l'ha. E lì c'è la pagina che non vi dico di cosa, perché andatevela a vedere, perché qua ci sono anche i bambini, oltre al resto adesso mi accorgo che non dovrei. e su Vittorio Emanuele, ragazzi. Garibaldi, poi venite a Trento a sentire lo spettacolo, e Garibaldi era un altro che combina, ha avuto questo grande amore, molto romantico, molto vero, molto sentito, effettivamente si innamorò solo di sta donna, però figli ne fece in quantità anche con le altre, l'ultima era la sua badante in sostanza, lui ebbe anche una storia, lui ebbe anche il matrimonio lampo, si sposò nel gennaio del 1859, quindi 60, scusate, siamo alle soglie dell'impresa di Mille, con una marchesina lombarda, 17enne, un'altra minorenne, basta. E vabbè, ma lì c'è anche il problema, perché Garibaldi aveva anche lui la mamma che si chiamava Rosa. Anche Mussolini aveva la mamma che si chiamava Rosa. Cioè, voglio dire, qua ragazzi, nomina, nomina, io non so, perché non sono mica io che le metto, non sono mica io cattivo, ma sono nella realtà. E lì, insomma, successe un casino, il matrimonio durò 3-4 giorni, perché qualcuno gli disse, guarda che questa qua però se la fa con altri. Lui lesse e disse, ma è vero? Sì, è vero, allora, brutta, lasciamo stare. E anche Cavour. Cavour, a parte che sembra che fosse ambidestro, ma l'accusa, no, veramente, no, è stato accusato di, in realtà, per giustificare, o meglio, per contrastare l'accusa di, allora, infamante di omosessualità, misero fuori una lista di donne spaventosa, e quindi anche Cavour, che aveva quest'aria pacciosa, quindi, se andiamo sul privato, ci sarebbe di che divertirsi, con una precisazione, che se consideriamo a parte il caso di Rosa Vercellana, che però sposa morganaticamente, a cui attribuisce il titolo di contessa di Mirafiori e Fontana Fredda, la Mirafiori la chiamavano, ebbe due figli dalla bella Rusì, però non c'è traccia in nessuno di costoro di un uso, voglio dire, sono affari loro, non han fatto mai diventare nessuna delle proprie amanti, né ministro né consigliere regionale, a parte che non c'è, cioè, capite il concetto, è questo, insomma, lì non si entra nella vita altrui in pratica con degli sproposti. Io direi che però, in omaggio a Garibaldi, nonostante queste sue gesta così, io farei la canzone garibaldina più amata dai garibaldini, che con quella chiudiamo, più amata dai garibaldini, dai volontari, perché i volontari usarono questa canzone, che anch'essa venne scritta la notte di Capodanno, guardate che i casi, le parole mise Luigi Mercantini, lo stesso della Spigolatrice di Sapri, la notte di Capodanno del 1859, coincidenze così, e venne cantata, fra l'altro c'è anche un documento d'archivio che io potrei, anzi più che potrei, dovrei mettervi in bella vista, ma lo cito dopo, adesso vi faccio sentire, prima dell'inno di Garibaldi, con cui più o meno chiudiamo, in mezzo ci sarà però una nota romantica, è un po' dolce, perché io sono anche molto tenero quando voglio, ho una certa età, però ancora mi ricordo, e allora ci ho messo dentro anche quello, no? Ma la canzone garibaldina più amata dei garibaldini e dei volontari è Camicia Rossa, e lì c'è un guaio che questa sera non tratterò, ma più avanti in altri casi forse sì. Camicia Rossa è la canzone di Rocco Traversa, di Anto Pantaleone, ed è stata scritta proprio nell'anno della spedizione di Sicilia, dell'impresa dei Mille. È molto bella, e ve ne faccio sentire un paio di strofe. Quando all'appello di Garibaldi tutti i suoi figli baldi daranno uniti fuoco alla mina, camicia rossa garibaldina daranno uniti fuoco alla mina, camicia rossa garibaldina apporti l'impronta di mia ferita, sei tutta lacera, tutta scucita, per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara, per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara, fin dall'istante che ti indossai, d'oro ti ricamai, quando a Milazzo passa il sergente, camicia rossa, camicia ardente, quando a Milazzo passa il sergente, camicia rossa, camicia ardente, odi la gloria dell'ardimento. Tuo colore mette spavento, Venezia e Roma, e poi nella fossa cadremo assieme, camicia rossa. Venezia e Roma, e poi nella fossa cadremo assieme, camicia rossa. Ecco, questa era una canzone che i garibaldini amavano molto. Ebbene, dicevo che prima di arrivare al dunque, evocando inni patriottici, canti nazionali, canzonette, abbiamo fatto un po' di strada. Gli inni poi, adesso mi è venuto in mente qua, lo dico perché posso dirlo qua, nella prima versione di questo, chiamiamolo, evento musicale, culturale, storiografico, che è avvenuta l'11 dicembre dell'anno scorso alla Normale di Pisa. Io ho fatto la prova del sangue prima. Questa cosa qua che sentite adesso l'ho fatta ascoltare a una banda di professori di storia del Risorgimento, uno più accigliato dell'altro, che alla fine erano in lacrime tutti felici. E lì c'era qualcuno che era più filo sabaudo. E io ho tentato, e vedete un po' com'è però la musica, io ho cercato di trovare le canzoni dei moderati. Cioè, ci sono le canzoni dei briganti, ci sono le canzoni satiriche, però a trovare le canzoni dell'unitarismo sabaudo si fa fatica. C'è una cosa carducciana, quando Carducci da vecchio riminchionì e dopo l'inno a Satana scrisse i versi all'eterno femminino della regina Margherita, ma lui scrisse quell'inno alla croce di Savoia dove recita: noi progenie non indegna di magnanimi maggiori, noi con l'armi e con i cuori ci aduniamo attorno a te, Dio ti salvi o cara insegna, nostro amore e nostra gioia, bianca croce di Savoia, Dio ti salvi e salvi il re. E Carducci è quello che a 100 anni dalla prima uscita in pubblico della bandiera tricolore, avvenuta a Reggio Emilia, si dice, ma era già stata l'anno prima nel 96, ma nel 1797 per la prima volta viene adottata come bandiera nazionale sostanzialmente, ad una storia ci farebbe un altro spettacolo per fare. È Carducci che finisce il discorso, l'Italia avanti a tutto, l'Italia soprattutto. Da una parte lui dice, vabbè, Deutschland über alles, oppure Zaia, il Veneto prima di tutto, no? Che è un altro. Però tolte queste cose qua, uno non trova nella musica, nei canti, nello sprone, nell'incitamento, niente che abbia a che fare con questo cotè, con questo versante. Il che significa, a mio modesto avviso, che sarà stata una colpa, Felix culpa, non lo so, ma a fare quella storia lì sono stati coloro che militavano da una parte. È stato il Partito d'Azione, e se anche dopo è andata male e Garibaldi ha deciso che a Teano si doveva dargli al re in mano un regno conquistato a gratis e altre cose, poi anche i garibaldini si dividono, sapete, già ancora vivo Garibaldi, cominciate a trovare garibaldini di destra e garibaldini di sinistra, Crispi ad esempio, massimo. E chiuderemo poi non a caso con due cose, in pratica finiamo adesso con la canzone, non è melodrammatica, è un canto popolare che però ha la datazione precisa, riguarda la guerra del 59, ma è stato scritto nel 1862, è l'anno anche dell'Aspromonte di Garibaldi, fu ferito nel 67 a Riva Mentana e nel 70 alla presa di Roma. Poi Garibaldi nel 73 dirà che il socialismo è il sol dell'avvenire, si iscriverà, lui si era già iscritto all'Internazionale, anche se, ripeto, non andava d'accordo né con Marx né con Bakunin, meno che meno, però disse questo e molti garibaldini gli diedero retta e un pezzo del socialismo italiano prese subito quella strada lì, garibaldina. Altri garibaldini andarono altrove e tutta la cosa si prolunga fino al fascismo, eccetera, eccetera. Però consentitemi questa debolezza, anche perché agevolato dal terologico che finora ho bevuto solo io, mi dispiace, io direi che la storia, che è una banale storia d'amore, perché poi di fatto queste cose qua, anche nella Grande Guerra, quali sono le canzoni che restano più dentro? E perché sono quelle più belle? Perché sono le storie degli uomini e delle donne che vivevano allora, che avevano, dico come ho ricordato all'inizio, preoccupazioni, problemi simili ai nostri. E quando la guerra arriva, e la si fa anche perché si va volontari, però malauguratamente si muore, c'è sempre qualcuno che rimane a piangere e a rimpiangere. E racconta, come in questa canzone, il povero Luisin, in dialetto lombardo, per dire ero a Pisa, mica altrove l'11 dicembre, e mi è stato riferito da amici che avevo fra il pubblico, che qualcuno ha detto: oh, ma che lingua è questa? Era lombardo, è un dialetto lombardo, ma penso comprensibilissimo. Si riferisce a un episodio proprio del 1859, di quella guerra, ed è il canto della ragazza che ha perso l'amoroso. Un dì per stato in strada passava un bel fie e una solinde rose la trae in su me puce. Scritto da Mercantini il testo della famosa aria, l'inno per antonomasia, l'inno quando si genera l'Ottocento, l'inno è l'inno di Garibaldi. Garibaldi era a Genova, come al solito stava lì, stava preparando. Siamo a casa di un suo amico, si chiamava Camozzi, e siamo in contemporanea alla bella Gigogin di Giorza di prima. Viene composta la musica dal maestro Alessio Olivieri, era un direttore di una banda musicale militare. La musica ottiene subito un successo notevole di popolo, non ripeto però fra i garibaldini che la canteranno solo dopo Mentana, dove fece la prima uscita, ma invece girava già nel 1860, la cantavano dappertutto in Italia e la suonavano. L'intendente generale di Genova, il prefetto, informa Cavour a Torino, e Cavour il 13 gennaio del 1859 manda lettera a questo prefetto, scrivendo letteralmente: il ministro sottoscritto ringrazia il signor intendente generale della comunicazione fattagli della canzone che si vorrebbe cantare in Genova. A quest'uopo lo scrivente invita lo stesso intendente generale a cogliere tutte le occasioni per far capire agli uomini del Partito Nazionale che di canzoni per liberare l'Italia ce ne sono già in numero soverchio, e che quindi il ministero le considera in chi le fa come indizio che non coi fatti ma con le vane parole intenderebbe giovare alla causa nazionale. Gli uomini seri, i giornali, dovrebbero volgere in ridicolo questi vati che, senza avere l'ingegno di Tirteo, fuggono come lui E qua canna clamorosamente. Pensate, a casa mia, siamo nel Veneto bianco, ma bianco bianco, e ancora siamo nel 1865, è il genetriaco di Francesco Giuseppe imperatore d'Austria, e il 18 di agosto, fra l'epistola e l'evangelio della messa solenne celebrata nella chiesa arcipretale di luogo in occasione della ricorrenza del compleanno del genetriaco di imperatore d'Austria, il giovane Luigi Benozzo, organista, fa sentire uno squarcio del cosiddetto inno di Garibaldi, viene arrestato e condannato a 5 settimane di carcere, ma pare che nelle strade della città lo suonassero e lo cantassero in tanti, 1865, ben prima del dilagare. È un inno che così proviamo a fare, ma anzi, accompagnati di voi, io canto un paio di strofe perché è bello, è trascinante, ma è una marcia, insomma, ci vorrebbe il coro, tutto. Si sto allarmi, scusate ma mi sono sbagliato, no? Allarmi, allarmi, allarmi, si scoprono le tombe, si levano i morti, le scorti i nostri sono tutti risorti, le spade nel pugno, gli allori alle chiome, la fiamma ed il nome, l'Italia nel cuore, corriamo, corriamo su giovani schiere, al vento per tutto. Le nostre bandiere, su tutti col ferro, su tutti col fuoco, su tutti col nome d'Italia nel cuore. Va fuori l'Italia, va fuori che l'ora, va fuori d'Italia, va fuori Italia. Finia qua perché adesso se no non mi resta il tempo per concludere con una punta di veleno, perché tutti sti garibaldini, dicevo, si dividono di qua e di là. Pensate che uno dei più grandi memorialisti, con Cesare Abba, il più grande, Giuseppe Bandi, viene addirittura pugnalato da un anarchico per le sue posizioni crispine nel 1894, ma nel 1893-94 già l'Italia garibaldina si è divisa in due parti, quelli che sono confluiti nel movimento operaio socialista c'è certi idee, fra loro c'è uno che si chiama Ulisse Barbieri, che ragazzino era stato arrestato dalla polizia austriaca a Mantova, sua città natale, aveva 16 anni, per aver affisso di notte dei manifesti dove non scriveva viva Pionovo, scriveva viva Felice Orsini, che aveva tentato di accoppare Napoleone III, voglio dire, sti qua, sì, dopo qualcuno dice che Galli e Roggia erano terroristi, no, facevano quello che potevano fare, insomma. Però Ulisse Barbieri, che è un personaggio straordinario, perché poi diventa commediografo, canta storia, addirittura va in Brasile nel 1887 e scrive i drammi nelle fazendas e gira per le fazendas a fare delle cose teatrali per gli emigrati italiani, però è anche l'autore di questa canzoncina con cui, per sdrammatizzare, per dire, non siamo mica tutti come Sgarbi noi, vorrei accomiatarmi da questo, cos'è? Il colto, perché l'inclita era la guarnigione e il colto era il pubblico, il colto e l'inclita, con una cosa che questo disse Barbieri, che poi morirà 6 anni dopo e sarà, poverino, una fine triste, muore nell'ospizio di mendicità di Mantova, che poi prenderà però il suo nome in compenso, a un'età che io ogni tanto quando leggo queste cose di questi nostri bis o trisnonni, trasecolo, perché dico, certo, moriva sui 60 anni, Maria Vergine, uno, due, me l'immagino, sì, bravi, ardenti come giovani, no, però a un certo momento afflitti come Garibaldi, tutti lo ricordate Garibaldi, oh, insomma, un eroe, però dopo il 1870 è un martirio, gli ultimi 12 anni già nella spedizione in Sicilia, l'artrite, l'artrosi, è una roba. Ebbene, lì succede un guaio nel 92-93, da cui nasce la nostra Banca d'Italia, è uno scandalo gigantesco in cui viene coinvolto anche Francesco Crispi, viene coinvolto il direttore e il proprietario anche della banca romana, si chiamava Lazzaroni, nome nome come quelli d'inizio, e Ulisse Barbieri scrive questo crack delle banche, con cui io vi saluto perché è arrivata l'ora, se no la macchina vostra si trasforma in zucca, e quindi tanto per dire che il mondo cambia, però noi abbiamo sempre tanta strada davanti da fare. Si affondano le mani nelle casse, crack, si trovano sacchetti pieni d'oro, crack, e per governare come fare, rubar, rubar, rubar, sempre rubare, e i nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci da tutto, noi siamo tre, celebri ladron che per aver rubato ci ha fatto senatore. Mazzini, Garibaldi e Masaniello erano tutti quanti malfattori, gli onesti sono loro e tutti miello, Ferruccio, Litti, Crispi e Lazzaroni, e i nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci la pro. Noi siamo tre ladri tutti e tre, che per aver rubato ci ha fatto cucini del re. Se rubi una pagnotta o un cascherino, te ne vai dritto in cella senza onore, se invece rubi qualche milioncino, ti devi nominar commendatore. E i nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci da tutto. Noi siamo tre celebri ladroni, che per aver rubato ci ha fatto senatore. Noi siamo tre celebri ladroni, grazie. Io ringrazio Valerio Trevisan che mi ha offerto questa opportunità, ringrazio voi che siete venuti, avete avuto pazienza di reggere fin qui, e ringrazio ovviamente Paolo Bressan ai fiati, e non avete sentito la gaita, e Mirko Maestro la fisarmonica. Un'altra volta per venire a Bolzano in un teatro con impianti, magari anche vis-à-vis vicini, ma che le robe mie, no? Perché sennò io cedo alla tentazione non della carne ma del vino. Grazie. Bon, grazie a voi.